11 meno un quarto, e dunque è stato letto anche il comunicato di questa importante iniziativa, di questo presidio, per stare a fianco di Mario. Non è stato letto il comunicato? Ci siamo sbagliati, perfetto, va bene. Comunque andiamo allora ad annunciare appunto ci sarà questo presidio, che si svolgerà il 24 gennaio a Piazzale Clodio a partire dalle 9:30, chiaramente tutti e tutte per sostenere la libertà senza condizioni per Mario Miliucci, ormai diciamo accanto insieme all'altro studente che sta scontando anch'esso i domiciliari, questa forma diciamo cautelativa di detenzione a casa, e stanno diventando entrambi gli unici capri espiatori di fatto delle giornate di lotta, in particolare del 14 dicembre qui a Roma. Si sta organizzando una campagna di solidarietà per gli arrestati, per sostenerne appunto la loro liberazione, e noi ne parliamo con un compagno che ha il telefono con noi. Ciao. Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, buongiorno, buongiorno. Sostenendo questa campagna per la libertà, insomma, di tutti e tutte le arrestate e gli arrestati del 14 dicembre, ma non solo, perché comunque sia nei giorni precedenti ci sono stati dei cortei che hanno visto insomma la repressione anche lì svilupparsi nelle sue varie variopinte forme, e quindi insomma sì, questa è uscita la necessità di far sì che si creasse un gruppo di supporto e di sostegno per tutte queste persone che per ora abbiamo un numero definito diciamo di denunce. Si vociferava che ne sarebbero dovute arrivare delle altre, e insomma di fronte a un'ondata repressiva così ingente è venuto diciamo spontaneo, è nata da sé l'idea appunto di creare questo gruppo e creare quindi una campagna cittadina, se non anche insomma di più ampio respiro, che vada insomma a sostenere tutte le ragazze e tutti i ragazzi, compagni e compagne, insomma, che durante questo arco di tempo e soprattutto il 14 poi hanno subito sui loro corpi appunto la repressione di Stato. La prima udienza ci fu il 23 di dicembre del 2010 contro Mario insomma ed altri compagni e compagne arrestate, e appunto sì, il processo per Mario, un processo con il rito abbreviato, si terrà appunto il 24 gennaio, come è sempre stato. Le udienze sono state accompagnate da appunto presidi diciamo che stanziavano di fuori al tribunale qui di Roma a Piazzale Clodio. Questa volta è stato deciso di farlo in maniera insomma ancora un po' più forte, c'è un manifesto, Roma sarà presto insomma, se non già da un paio di giorni stanno cominciando a girare i manifesti che insomma chiamano al presidio, e insomma quindi l'invito è quello a far sì che il 24 gennaio dalle ore 9:30 la larga componente che ha partecipato alla giornata del 14 dicembre scorso, e quindi mi riferisco a studenti, lavoratori, precari, migranti, disoccupati e chi più ne ha più ne metta, possano ritrovarsi nuovamente per appoggiare insomma in questo caso Mario, perché il 24 il processo sarà solo per Mario, ma possano e continuino ad appoggiare insomma tutti e tutte durante questi mesi, in quanto in piazza c'eravamo tutti e tutte, e non si può di certo addossare la colpa di ciò che è successo solamente a un piccolissimo gruppo di persone, se non anzi in questo momento la stanno pagando in due in maniera, come dicevi tu prima, insomma un po' più pesante. Di certo insomma i criminali sono loro, non siamo non sono le persone che sono scese in piazza, non è quel San Pietrino lanciato che si può andare a paragonare con la violenza di una vita sfruttata che quotidianamente ognuno di noi vive sulla propria pelle. Certo, senti, insomma, certamente il movimento studentesco saprà come riprendere in mano il bandolo della matassa e rilanciarsi nelle lotte anche contro la riforma Gelmini, che chiaramente, sebbene sia passata, sconta ancora una serie di passaggi a livello di iter. Ci sono ad esempio ancora i decreti attuativi su cui si può ancora dare battaglia. Certamente però il movimento studentesco non può diciamo dimenticarsi delle vicende che si è lasciato alle spalle, la detenzione di Mario, i suoi arresti domiciliari, la conferma di questi arresti, tra l'altro confermati, come tu dicevi, lo scorso 23 di dicembre, considerando una presunta pericolosità del soggetto e soprattutto anche il clima ancora di tensione che secondo i giudici permaneva nel paese. C'erano ancora alcune manifestazioni da svolgersi, e comunque si è prolungata i tempi di questa detenzione fino a, appunto, al 24, quando ci sarà questa udienza. Ci sono addirittura i presupposti affinché questa battaglia possa essere allargata addirittura a livello nazionale. Ora è chiaro che è difficile, ma insomma il bilancio della repressione su questo movimento studentesco, forse ce ne siamo accorti poco, ma in realtà si è ormai aggravato ed è diventato decisamente pesante. Ci sono almeno una sessantina di denunce a Milano, dove da anni non si notava la solerzia dei presidi, soprattutto nel chiamare le forze dell'ordine per far sgomberare i licei occupati. Altrettanti, un'ottantina i denunciati a Firenze, soprattutto per le giornate di protesta sulla visita della Santanchè. Altrettante a Roma, alcune erano state promesse dopo la giornata di lotta al Senato, poi si sono un po' perse le tracce di quelle denunce, ma comunque si parla di altre 60 denunce dopo il 14 dicembre. Insomma, questo è il bilancio. Ripeto, chiaramente non è facile attrezzarsi per rispondere coralmente a questo attacco, ma insomma è chiaro che provare a dislocare le battaglie laddove si sta è chiaramente un primo punto di partenza, no? Sì, sicuramente, perché come dicevi tu, appunto, insomma, sono arrivate differenti denunce in differenti città. Le stesse persone che sono state denunciate il 14 non sono tutte quante persone comunque di Roma, sono delle persone di Genova, sono francese, quindi come dicevi tu, il respiro più ampio che potrebbe scaturire da questa campagna sicuramente lo vediamo in maniera positiva, e sicuramente i compagni e le compagne delle altre città si staranno anche loro comunque organizzando per rispondere a questa ondata repressiva. In virtù di questo, infatti, ci saranno alcune iniziative da qui ai prossimi giorni, ai prossimi mesi, insomma, che saranno volte a far uscire qual è il reale messaggio rispetto a ciò che è accaduto il 14, e volto quindi, diciamo, anche poi a smascherare il fatto che in questo particolare momento il governo, insomma, non sapendo che pesci prendere, mira a criminalizzare, diciamo così, e a reprimere, in quanto un po' per distogliere, diciamo, pure le cose che stanno avvenendo in questi giorni, un po' per tentare di frenare un qualcosa che gli è indubbiamente sfuggito di mano, perché il 14 penso che non si aspettavano una giornata del genere. E quindi, diciamo, queste denunce tentano di portarle avanti poi per far sì che qualcuno ripensi sul suo agire e si fermi. E invece quello che bisogna fare in questo momento, invece di fermarsi e intimorirsi, è tutt'altro, e anzi è rilanciare e continuare maggiormente i percorsi che ognuno, insomma, porta avanti nel quotidiano. Eh sì, d'altronde, insomma, diciamo, lo spirito intimidatorio di cui tu parlavi è tradito bene, insomma, da alcuni aspetti. in particolare dal fatto che poi spesso i reati contestati in queste occasioni sono talmente generici da non individuare reati appunto specifici, e questo adombra il fatto che la logica che li sottende sia esclusivamente punitiva, insomma da rastrellamento generalizzato. D'altra parte poi abbiamo visto anche che c'è il tentativo, perlomeno c'è stato, di voler dare una condanna esemplare a questi compagni, loro malgrado malcapitati, insomma ostaggio nelle grinfie della repressione, volontà di punire a livello esemplare che ha mostrato ad esempio Alemanno quando ha cercato di costituirsi come comune, insomma parte civile all'interno del processo. Fortunatamente questo tentativo è stato respinto, anche perché a Mario non viene contestata alcuna alcun aspetto legato alla rete urbana, esatto, sì. Esatto, quindi fortunatamente sfumata, però insomma ha ben evidenziato anche questo elemento, quanto ci sta una volontà punitiva, no, nei confronti di questo compagno, e ancor di più quindi da parte nostra l'impegno a non smettere di stargli accanto, no? No, sicuramente continueremo, insomma, per chiedere appunto a gran voce, anzi per esigere a gran voce la libertà di Mario, la libertà comunque di tutti e tutte quelli e quelle, come dicevo prima, che sono stati presi durante il 14 dicembre e comunque durante tutto questo periodo. Attenderemo appunto tante persone il 24 gennaio di fronte a Piazzale Clodio per appunto rilanciare per lanciare ancora con più forza questa campagna di sostegno legale appunto verso tutti i compagni e le compagne che in questi giorni insomma si trovano così sotto pressione da parte appunto delle forze dell'ordine. Va bene, allora l'appuntamento è per il 24 alle 9:30 puntuali a Piazzale Clodio per la libertà di Mario Miliucci e di tutti e tutte. Ok, ciao, grazie. Buona giornata, grazie a voi. Je suis déter, j'ai refusé que le ghetto puisse me faire l'effet de l'éther sur mon cerveau d'ado.